rimasti colpiti dalla preparazione di Tecnico. Io credo che il fenomeno delle teologhe donne in Italia sia un segno dei tempi, cioè una grazia di Dio, nel senso che fino a 10-15 anni fa non se ne vedevano, adesso se ne vedono sempre di più. Io devo dire che tutte le teologhe donne che ho conosciuto sono straordinariamente brave. Oh, mamma mia! Mamma mia! Mi mette a mio agio. E quindi siamo proprio contenti di averla qui oggi. Ci dispiace che mancano un po' di persone oggi per motivi personali, anche dovuti forse al tempo, ma dato che lei è monregalese, non è detto che non vediamo prima o poi di nuovo a chiederti di aiutarci in questo nostro percorso. Le ho spiegato un po' a grandi linee chi siamo noi, ha capito credo perfettamente, e quindi uomini e donne che cercano di prendere sul serio il Vangelo del Regno di Dio. Grazie Monica. Bene, grazie a voi, perché questa è stata una bella opportunità per riprendere un po' di cose. Sto in piedi, se non vi dispiace. A scuola poi i miei studenti, io insegno anche religione al liceo di Mondovì. Insomma, faccio lezioni in piedi, insomma, mi sembra che le idee vengano un po' meglio, forse. Quindi farei così anche con voi. Bene, grazie di questa opportunità, davvero, mi ha proprio permesso di riprendere un po' di cose. Allora, io vi proporrei un percorso, come avete visto dal titolo, vi proporrei un percorso che passa attraverso alcuni autori, quello che loro hanno detto, che ho provato a mettere insieme. Vediamo se è venuto fuori qualcosa di gustoso e saporito, oppure ho esagerato col sale e magari meno, o magari ho messo insieme cose che non stavano tanto bene insieme. Allora, gli autori in questione sono, forse li avete già anche sentiti da qualcun altro, Christoph Theobald, che è un gesuita, un professore di teologia fondamentale e dogmatica a Parigi, ha scritto molte cose, questa è l'ultima sua fatica, Spirito di Santità, ecco, come manuale, poi ha scritto altre cosette dopo, è del 2018. Bene, questo è un testo che ho utilizzato 2017, scusate, che ho utilizzato molto per la mia tesi in teologia morale e che insomma in qualche modo adesso vi propongo in alcuni passaggi secondo me chiave. Poi come teologa che tenta di fare una riflessione teologica in campo morale, beh, su tutti, per me, naturalmente per me solo, perché magari qualcun altro lo apprezza di meno, è Giuseppe Angelini, che Theobald insegna a Parigi. Angelini qualche corso lo fa ancora a Milano, Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, dove insegna anche il nostro Duilio Albarello, 80 anni, insomma fa ancora delle cose in giro, è stato anche preside, ha pubblicato molte cose. Questa fatica, e cioè il manuale di teologia morale, ritengo sia un buon punto di partenza per chi vuole provare a leggere di morale un po' al di fuori dei percorsi già percorsi, ok? Poi il riferimento terzo che vi propongo è Stella Morra, una teologa, perché non posso non citare una donna, altrimenti, insomma, no? Una teologa fossanese che insegna la Gregoriana a Roma, insegna teologia fondamentale, ne avete sentito parlare ultimamente, la stampa ha detto anche di lei, insomma, per le responsabilità che ha assunto in Gregoriana. Lei una volta al mese a Fossano viene a fare una lexio, ha già prodotto molte cose, e questo Dio non si stanca in occasione dell'anno della misericordia, mi pare sia un testo interessante per riflettere sulla misericordia. Ha prodotto altre cose, questo è del 2015, molte altre cose ha prodotto. Ecco, questi sono i tre autori che farei un po' interagire in questa nostra riflessione. Una riflessione che ho pensato in qualche modo come muoversi attraverso sette tappe. Poi mi sono un po' spaventata, ho detto no, sette in Apocalisse è il tutto, è la completezza, aver la pretesa di essere completa su questo tema e di dire tutto. Allora mi è preso un po' di agitazione e ne ho aggiunto uno. Va bene così, è meglio. Altrimenti è un po' pericoloso se comincio con questo Andy. Andy in piemontese vuol dire, insomma, no? Andazzo. Ecco, sta andazzo. Quindi ne ho aggiunto uno, ma ne ho aggiunto uno, insomma, che ha un suo peso, perché sono alcune riflessioni di Papa Francesco proprio su questo nostro tema, che considero come conclusione del nostro percorso. Quindi sono sette passaggi, uno dopo l'altro. Quando mi fate qualche cenno così di addormentamento, mi fermo, facciamo una pausa, sì, e poi riprendiamo per un piccolissimo pezzo e poi lasciamo spazio evidentemente per il confronto, se ritenete. Va bene? Va bene. Va bene, allora io partirei da una domanda. Probabilmente dirò cose che hanno già detto anche altri, ma va bene, insomma, risentirle non fa mai male, almeno a me serve anche proprio tanto. Dunque, partirei da una domanda ed è questa: regno di Dio futuro o presente? Che già da già di questo potremmo dire molte cose. Regno di Dio è oltre la fine del mondo o è già presente ed operante? Ecco, mi sembra che dire qualcosa su questo possa già in qualche modo aiutarci. A me sembra, me l'hanno già detto anche altri probabilmente, che dobbiamo abbandonare noi una prospettiva detta metafisica, che sicuramente ha fatto del bene, ci ha dato anche molto in passato, però oggi ho l'impressione che non dica più tanto alla gente con cui interagiamo. Cosa vuol dire? Per gli addetti ai lavori la chiamano prospettiva metafisica, per noi comuni mortali vuol dire partire da Dio che esiste con una serie di verità, dire che le ha dette e credere in queste verità. E dire agli altri, soprattutto ai non credenti, Dio ha detto questo. E visto che Dio ha detto questo, il problema è che chi non è credente ti dice, ti rispetta, ma ti dice, guarda, tu parti da un punto di vista che non è il mio. Quindi il dialogo è già bello che è interrotto. La prospettiva metafisica andava bene quando la società era cristiana e allora si dava per scontato un punto di partenza che era comune a tutti, no? Tutti sono credenti, tutti sono cristiani, quindi davvero possiamo dire Dio ha detto, no? E partiamo di lì, facciamo delle considerazioni. Io se dico questo a scuola, più della metà, magari per rispetto mi ascolta anche, ma l'ho persa. Quindi non possiamo più avere un approccio di questo tipo, che ha fatto anche del bene, non vorrei neanche passare per quella che butta tutto all'aria, dice no, ecco, cambiamo il mondo perché da me in poi tutto funzionerà meglio. No, non va bene questo, però dobbiamo trovare un altro approccio. Ecco, allora mi sembra che il Vangelo, che è contemporaneo ad ogni uomo e ad ogni donna, sia non solo dietro di noi, perché inevitabilmente facciamo memoria, no? Ad ogni messa facciamo memoria della morte e risurrezione di Cristo, però sia davanti a noi, sia davanti a noi, e in qualche modo si stia facendo grazie a noi, con noi, non soltanto per merito nostro. Dunque, più che a delle verità dall'alto che vengono calate verso il basso, credo evidentemente ad un altro approccio che l'avete già sentito, no? Fenomenologico, che vuol dire partire dalla realtà, partire dalla storia, partire dalla vita, consapevole che la verità si fa, non è una serie di affermazioni da elencare, ma si fa con noi, per noi e con l'aiuto di Lui. Allora, questa realtà che si sta facendo con noi, per noi, con l'aiuto di Lui, è il Regno. Quindi, ci siamo già liberati del primo punto. Alla domanda futuro o presente, io proporrei, per uscire dalla questione, un altro approccio, secondo punto, cioè il carattere dinamico del Regno. Quindi piuttosto che dare ragione agli uni, presenti per i pipipipi, è soltanto nella di là per i pipipipi, ecco, piuttosto che entrare in questa dicotomia, io direi il regno di Dio, vederlo come con un suo dinamismo, con un suo carattere dinamico. Supererei questa alternativa. Direi che ha avuto un inizio, uno sviluppo con Gesù di Nazareth, il regno di Dio in mezzo a voi, ok? E poi ci sarà un compimento. Questo regno che è incominciato con la creazione, quando Dio a un certo punto ha voluto un altro da sé con cui entrare in relazione. Ha voluto noi che entrassimo in relazione con Lui, quindi un regno che è all'inizio con Lui, che ha raggiunto il suo compimento con Gesù di Nazareth, perché l'abbiamo visto, ma che avrà la sua realizzazione ultima e totale alla fine dei tempi. Ecco, allora il tratto disteso nel tempo del regno di Dio corrisponde al tratto, lo dice Angelini, drammatico che è proprio della vita umana. Allora, qui drammatico ci viene tutti l'angoscia e dice, vabbè, allora cosa vuol dire? Vuol dire che il regno di Dio lo conoscono soltanto quelli che soffrono. Anche lì io non entrerei in questa questione, perché il dramma, così come è inteso dalla parola greca, vuol dire agire, vuol dire azione. Poi a un certo punto è diventata nell'epoca moderna un'opera teatrale luttuosa, ma all'origine veniva utilizzata anche per la commedia, per la tragedia. Quindi Angelini, quando dice il carattere drammatico della vita, intende dire il carattere vissuto della vita, cioè il regno così nel suo dinamismo è come l'uomo, che nella sua esistenza capisce di sé e si vede in relazione con gli altri. Allora, il carattere drammatico della vita umana vuol dire il carattere vitale, perché noi agiamo, siamo qui, ad esempio, stasera saremo da un'altra parte, il carattere vitale della vita umana, sì, ma sappiamo cosa vuol dire, perché se uno... a un certo punto della vita si guarda indietro, vede di sé, no? Tante cose, e oggi può dire io in un modo molto diverso da come avevo detto io a 20 anni, io avevo detto io a 30 anni, io dico io oggi in un altro modo. L'unica cosa che è rimasta sempre lei in questi miei 53 anni è il nome, Monica. Però questa Monica dentro oggi ha dei contenuti, con i vostri nomi, ecco, evidentemente, ha dei contenuti che si sono nel corso dei decenni raccolti l'uno all'altro, e oggi sono Monica tutto insieme, ma so che c'è ancora dello spazio, spero di stare ancora qui un po' di tempo, per riempire il mio nome di altri contenuti. Allora abbiamo detto, no, piuttosto che dire futuro presente, diciamo il carattere dinamico del regno. E poi diciamo niente di strano sotto il sole, perché anche noi viviamo in un dinamismo da un inizio fino ad una fine. Ecco, non c'è nulla di strano in questa cosa. Vedrai il regno proprio in questo dinamismo. Vedrai il regno in questo dinamismo. Secondo punto. E passerei a questo punto allora al terzo, vedete che insomma ci muoviamo abbastanza, almeno velocemente. Allora abbiamo detto il carattere drammatico della vita umana, abbiamo visto detto il regno di Dio nel suo dinamismo, e abbiamo anche detto che cosa si intenda per dramma, cioè per azione, si intende agire. Ecco, notate, no, come questa impostazione, questa antropologia, si dice, no? Questa impostazione dell'uomo nel suo agire, nella sua vita, no? Nei suoi incontri e nei suoi dinamismi interiori, sia proprio lontana da una impostazione, quella dell'antropologia delle facoltà. L'antropologia delle facoltà è un modo di vedere l'uomo che era tipico della scolastica, di Tommaso, insomma, anche lì non voglio buttare niente a mare. Quell'impostazione andava bene in una certa epoca storica, allora l'uomo lo si vedeva come ragione, volontà, appetiti, dove gli appetiti erano gli impulsi, le inclinazioni. L'uomo era vissuto in questi, era visto in questo modo, e è andata bene fino a un certo punto. Poi, vabbè, poi direi Freud, ma non soltanto, evidentemente, dell'uomo oggi noi possiamo dire molto di più. La coscienza in questa impostazione, antropologia delle facoltà, sì, c'era, ma era un po' appiccicata lì rispetto ad una prospettiva. Sì, se ci fosse Tommaso qui e mi sentisse dire appiccicata lì, insomma, si ribellerebbe. Sì, sì, c'era uno spazio dedicato alla coscienza, ma non partiva tutto dalla coscienza. Ecco, in realtà il Concilio Vaticano II ha riabilitato questa dimensione, cioè quella della coscienza, una coscienza formata, una coscienza come tutt'uno dell'uomo, come uomo unità psicosomatica, per cui se ho mal di pancia, sì, potrebbe essere un mal di pancia per qualche problema di natura fisiologica, o magari perché non sopporto Monica Bona, solo vederla mi irrita, mi fa venire o mal di schiena, o mal di testa, o mal di pancia. Siamo una unità psicosomatica. Allora, questa antropologia delle facoltà, che ha lasciato tanto e ha fatto anche del bene, oggi pare non parlare più alle nuove generazioni, e forse tutto sommato neanche più tanto a noi. Ecco, allora Angelini propone una lettura diversa, che non parte da un'antropologia delle facoltà, ma parte appunto da una dimensione che lui chiama drammatica, ma se non vi piace drammatica, vissuta, no? L'uomo, la donna, nella sua vicenda terrena, nel suo percorso dalla nascita alla morte. Lui dice: quello che io sono fin dalla nascita e che nell'adolescenza presagisco, perché tu li vedi questi adolescenti che sono né carne né pesce, ma non glielo puoi dire, perché poi si arrabbiano, però cominciano ad avere delle questioni un pochino più personali, a distanziarsi un po' dai genitori rispetto a certe cose, magari credono le stesse cose dei genitori, ma a loro modo, evidentemente, no? Ecco, allora loro cominciano a intuire qualcosa di loro stessi nell'adolescenza, che poi prende forma sempre di più, e oggi tu di te puoi dire delle cose, perché le hai pensate di te, ma molte cose ti sono arrivate anche da quelli che di fronte a te stavano e che ti hanno rimandato delle cose di te. Ce lo dicono due persone sposate, ce lo dicono che dallo scambio, dalla vita insieme, capisci delle cose di te, anche qualche volta da qualche scontro, da qualche conflitto. L'altro è uno specchio, ti rimanda anche le cose meno belle, più antipatiche, che tu non guardi o non vuoi guardare. Chi è sposato ce lo dice, ma non soltanto chi è sposato, chi vive in mezzo alla gente, che ha delle amicizie profonde, intense, i confratelli sacerdoti, con quelli con cui magari hai un pochino più di un rapporto personale, ti rimandano delle cose di te. Quindi c'è tutta questa dimensione. La verità di me non è dall'alto che mi è stata data, ma io la sto scoprendo di me, grazie anche all'incontro con gli altri. Ecco, quello che dice Angelini, quello che sin dall'inizio c'è, poi nel corso della vita io lo sperimento. Lui dice che si educa anche al cogliere il lato promettente della vita. Qui hanno una grande responsabilità i genitori, hanno una grande responsabilità gli insegnanti, hanno una responsabilità gli zii, le zie, insomma i nonni, le nonne, no? Fare assaporare al nostro bimbo, al piccolo di uomo, che la vita ti può dare, ecco, il lato promettente della vita, che qualche volta, ecco, la vita può anche togliere, però la vita dà, e dà moltissimo. Ecco, questa fiducia nella vita, che passa attraverso i genitori in primis, ma non solo, quella fiducia uguale fede elementare può diventare cristica, nel senso che quella fede è il passaggio elementare per un successivo, forse, passaggio, che è quello della fede in Gesù. Ecco, per cui l'importanza di coltivare questo nel piccolo. Io non credo nell'espressione tu hai avuto il dono della fede, io no. Si è detta tante volte questa cosa, ma tante volte, e chi l'ha detto in buona fede, per carità. Ecco, io penso che questa affermazione contenga una confusione all'interno, io non la direi, no? Come se ci fosse la fede da una parte, quella di Dio, che o ce l'hai o non ce l'hai, e poi c'è la vita di ogni giorno. In realtà la fiducia in Gesù Cristo è qualcosa di, è un passaggio che può avvenire, forse in noi è accaduta questa cosa, ma in realtà noi la fiducia l'abbiamo sperimentata da piccoli, noi sappiamo che cos'è fiducia, che cos'è, abbiamo chiamata fiducia e non fede, ma questo abbandonarti all'altro, questo contare sull'altro, anche se non lo vedi sempre. Pensate alla fiducia che ha un uomo in una donna e una donna in un uomo, che li porta a decidere della loro vita insieme. Mica loro sono certi al 100% che la loro vita sarà splendidamente bella, senza difficoltà e insieme per 100 anni. Se non è quella una fiducia che sperimentiamo, umana, molto umana, di abbandonarti all'altro, all'altra, ma anche in amicizia, insomma, nelle relazioni che abbiamo. E lui dice: questo passaggio è importante nel piccolo, assaporare il lato promettente della vita, assaporare la fiducia delle relazioni. È il passaggio che può portare, ecco, ad altre fiducia. E qual è il percorso che Angelini propone? Ma il percorso che lui propone è quello che parte dalla meraviglia. Imparare a meravigliarsi, imparare a vedere ciò che ti accade intorno e a chiedere di queste meravigliose cose che ti capitano intorno, così come hanno fatto, ad esempio, nel deserto gli ebrei, che stavano faticosamente cercando di arrivare alla terra promessa. A un certo punto non c'era cibo. E a un certo punto vedono una cosa minuta e granulosa e dicono: man hu, cioè che cos'è? La manna, no? La domanda man hu, che cos'è? La meraviglia rispetto a qualcosa di un pochino strano che non sai bene che cosa sia. Da quella domanda la risposta è il pane che il Signore ha dato come cibo. Ecco che l'altro mi aiuta a capire quello che è nato dalla mia domanda, dal mio stupirmi delle cose che abbiamo intorno. Allora lui dice: partiamo dal guardare, dal meravigliarci, dallo stupirci, e facciamo delle domande. Facciamo delle domande, cerchiamo di andare in profondità, ecco, e attendiamo dagli altri le risposte. Questo apre all'altro. Apre evidentemente la risposta e apre ad un percorso che, se avessimo tempo, potremmo evidentemente sviluppare, ma non oggi. Allora, ecco, vi ho dato qualche piccolo riferimento all'antropologia di Angelini. Non abbiamo tempo di andare in profondità, perché poi dopo la meraviglia c'è tutto il resto. Vi faccio venire voglia di leggere il libro, insomma, no? Evidentemente. Però ecco, volevo darvi un assaggio, che non è completo, ma un assaggio del suo percorso. Quindi non parto dall'alto, metafisica, un'antropologia che parte dall'alto, ma parto dal basso, dal bambino che fa domande. E sono i perché, no? E perché? E perché? E perché? E perché? Questi bambini, no? A un certo punto, in quella fase lì, chiedono perché di tutto. Bello, bello, prendiamo, cogliamo al volo queste opportunità che ci vengono date dai bambini. Allora, il passo successivo che vi chiedo, appunto, è la dimensione proprio dello stare insieme, perché dallo stare insieme comprendo di me attraverso un percorso che parte dalla domanda e dalla meraviglia. Ecco, Angelini dice nel suo libro come non possiamo fare a meno degli altri. Vabbè, non l'ha inventata lui questa cosa qui, evidentemente, no? Se ricordiamo in Genesi, non è bene che l'uomo sia solo. tanto per, no? Prima di Angelini sicuramente, evidentemente, no? Però ecco, lui sottolinea questo aspetto, no? Del dato culturale, la sociologia, insomma, sappiamo che ci dice che siamo animali sociali, insomma, no? Ma non solo questo, ma io non sono competente, quindi lascio a chi fa questo lavoro. Ecco, l'importanza della cultura, perché se da una parte io faccio delle domande, cerco delle risposte, qualcuno accanto mi aiuta, mi educa al lato promettente della vita, ad avere fiducia che la vita ti darà molto, poi ti metterà anche alla prova, però ti darà molto. Se da una parte io faccio questo percorso, dall'altra lui dice la cultura è importante, le tradizioni. L'ascoltare i nonni e la loro saggezza. Noi facevamo così e poi il loro spiegare come a loro volta facevano così i loro nonni. Ecco, è rilevante, è importante la cultura. È quella, lui la definisce proprio come quell'insieme di tradizioni che vengono nel tempo tramandate e che è il perimetro entro cui noi siamo e che insomma è la base da cui partire. Lui dice che è il complesso delle forme simboliche mediante le quali nel tempo e presso un determinato popolo trovano articolazione i significati elementari del vivere. Questa è la definizione. Prima ho provato a dirla un po' meglio, no? Almeno non meglio di lui, ma magari più immediato. Sì, è proprio questo, no? Cioè i nonni e i genitori che mi aiutano a dare significato alle cose che accadono. Ecco, il partire dal basso invece che dall'alto. Da una serie di verità, ormai avete capito perché l'ho ripetuta molte volte. Ecco, allora, qual è la conclusione di questa parte, la terza? È questa, che il regno è in divenire, il regno di Dio, ma anche l'uomo è in divenire, no? E l'uomo può essere educato a intraprendere un senso. Lui dice un'orientazione trascendente, va bene, no? Un senso, un significato che immediatamente non ti apre subito a Gesù Cristo, però ti apre a scoprire dei significati e poi permette a chi lo vuole di trovare in Cristo il senso ultimo. Però intanto io imparo già a trovare dei sensi e dei significati, perché me l'hanno insegnato, perché così faccio, insomma, io piccolo, adolescente, giovane e così via. Lì si può innestare l'evento Cristo, che è il significato dei significati. La mediazione della cultura, così vista, tradizione, mi insegna anche ad affidarmi, sì, ad affidarmi, a quello che i nonni mi raccontano, a quello che i genitori mi raccontano, le zie, gli zii, il maestro, l'insegnante, insomma, no? Me l'ha detto l'insegnante, me l'ha detto papà, me l'ha detto mamma, no? Ti fidi, non hai bisogno di tante prove. Ecco, questo aiuta il percorso del nostro Pierino, scusate, nell'arrivare poi eventualmente un giorno, se lo ritiene, a fidarsi di Gesù Cristo. Questo è il terzo passaggio che vi chiedevo di fare con me. Il quarto, vediamo come riusciamo a mettere insieme questo regno di Dio, che è dinamico, perché l'abbiamo detto. Io non mi occupo di andare a vedere nella scrittura tutto questo, perché so che è già passato prima di me chi questo l'avrà fatto benissimo, quindi do per scontato questo percorso che avete fatto sulla scrittura. Allora, il regno di Dio è in divenire, ma anche l'uomo è in divenire, e non dico altro perché sennò poi veramente noio. Come possiamo metterli insieme questi due mondi, farli incrociare insieme questi due mondi? Ecco, qui passo a Christoph Theobald, no? E provo a mettere insieme quello che lui a riguardo dice rispetto alla premessa fatta in quel modo che ho provato a condividere di Angelini. Allora, intanto questo quarto punto ha tre, come dire, sottopunti. Vediamo di... ce la fate ancora? Questi tre sottopunti che vedo di dire un po' velocemente, ma non in modo sbrigativo, perché mi rendo conto che non devo anche abusare troppo della vostra pazienza. Dunque, intanto farei prima, quindi il tema è mettere insieme i due dinamismi. Ok, questo è quello che vorremmo cercare di fare. Lui lo dice così: la relazione tra l'evento Cristo e l'esperienza dell'uomo non si produce in vitro, ma si realizza all'interno del difficile vivere insieme. Stessa cosa. No? Lui la dice in questo modo, no? La relazione tra l'evento Cristo e me non avviene in provetta, non si fa in laboratorio, ma la relazione tra Cristo e me si produce dove? Qui con voi, ma magari anche stasera con i miei genitori, ma lunedì a scuola, cioè nella vita, insomma, no? Non è che questo incontro avviene in provetta, ma avviene appunto nella vita. E lui lo chiama difficile vivere insieme, perché non contiamocela, cioè non è che stare insieme è sempre bello come adesso qui, no? Qualche volta anche un po' complicato, un po' faticoso, qualche malattia. Io ho una mamma malata da 29 anni che accudisco, insomma, no? Voi avete anche le vostre situazioni, probabilmente anche faticose, quindi non contiamoci che tutto sia bello e roseo, no? No, la vita è anche difficile, qualche volta anche complicata, ha dei pesi da portare. Questo lo sappiamo, non deve arrivare Monica Bona a dirvi le cose, basta che ognuno guardi la sua vita e sa bene che quello che sto dicendo è vero. Allora, come si possono mettere insieme questo, no? Il mio percorso con la compagnia di Gesù Cristo nella vita, dove in mezzo a me, in mezzo a noi, ci sono persone che non sono credenti, essendo che non partiamo dall'alto, ma partiamo appunto dagli uomini, dalla loro vita. Allora, i passaggi sono tre. Il primo è proprio quasi anche banale, cioè sono tanti e diversi i modi che gli uomini hanno di abitare questo mondo. Vabbè, insomma, è talmente scontato che non direi altro, se non dire che siamo in tanti, siamo diversi, abbiamo tutti il nostro modo di vedere la vita, no? C'è chi la riconduce a Dio, chi non la riconduce a Dio, c'è chi fa il bene, c'è chi fa il male, non è detto che chi non abbia Dio come compagnia faccia il male, anzi, qualche volta è di insegnamento a chi è credente. Tanti sono i modi di abitare questa terra, abitarla nel senso di starci, e di starci, insomma, consapevolmente, e di starci, insomma, convintamente. Abitare non soltanto, io abito in via Carassone 26, abitare in senso proprio lato, no? Secondo passaggio, ecco, fatta questa premessa che sono in tanti, se permette i modi, secondo passaggio, lo stile di Gesù. Se permettete, siamo in questo contesto, lo stile di Gesù qual è stato? Ecco, lui dice, sottolinea, l'ospitalità. Certo, si potrebbero dire molte cose di Gesù, non è l'unica evidentemente, no? Però lui sottolinea questo aspetto, l'ospitalità di Gesù, il suo stile ospitale. Emerge da Gesù un modo di entrare in relazione, un modo di vivere la prossimità, l'ospitalità, di creare spazi benefici di libertà. Chi lo incontrava, chi interagiva con lui, che gli chiedeva il miracolo, piuttosto che magari lo metteva anche alla prova e così via. Ecco, l'ospitalità, ospitare chi incontra, ospitare non solo ospitare a casa, ma ospitarlo nel proprio spazio, nella propria vita. Ecco, le persone in questi incontri, nel Vangelo, le persone in questi incontri si propongono a Gesù già con un bagaglio loro personale, si dice un già, teologicamente, e dall'incontro con Gesù vengono come se risvegliati, come se recuperati, come se qualcuno se ne va anche via, perché quello che Gesù gli chiede è troppo. Però da questi incontri uno arriva con un suo bagaglio, lo incontra e ritorna in qualche modo da questo incontro sorpreso. Ecco, il nostro autore dice che forse l'approccio a Gesù deve essere questo, no? Sì, noi sappiamo che Gesù è vero Dio, è vero uomo, che è morto e risorto e che è l'incarnazione del Padre, punto. Lo sappiamo, ne siamo convinti, ce lo portiamo dentro, ok? E questo è il cuore della nostra fede. però non tutti arrivano a queste affermazioni. Ecco, allora l'importanza, quando questi due mondi possono, se vogliono, incontrarsi, quello del regno di Dio e quello del vivere insieme senza evidentemente un riferimento al trascendente, è quello dell'ospitalità, dice lui, no? Ospitare l'altro dentro la propria vita, ospitare le sue idee, ospitare le sue posizioni anche diverse. Perché Gesù diceva, sei ebreo, non lo sei, sei credente in Dio, non lo sei. La gente andava da lui e chiedeva. No? La gente andava da lui e chiedeva e lui agiva e non gli chiedeva prima, insomma, a che punto sei tu con la tua fede, poi vediamo se fare il miracolo oppure no. Sì, qualche volta ha messo alla prova qualcuno, ma erano gli scribi farisei, quelli che credevano, dall'alto della loro fede di essere a posto. Certo che la loro anche era una fede, ma forse una fede ancora infantile, nonostante avessero certi anni e anche degli studi, forse la loro fede aveva bisogno di essere un po' rimessa in discussione. Per questo, ecco, Gesù, no? Metteva alla prova questi. Ecco, allora, primo passaggio, tanti modi di stare in questo mondo. Secondo passaggio, qual è stato il modo di Gesù? L'ospitalità. Lui si è concentrato su questo, non c'è solo questo. Allora a questo punto, terzo e ultimo passaggio del punto 4, direi questo. Forse la questione in prima battuta è essere credente, ma non nel senso di credente in Dio, ma nel senso di dare credito alla vita. Riprendo il concetto detto prima, perché era poi la modalità di Gesù. Allora capite che se noi partiamo dalle persone che danno credito alla vita, e laddove le persone non danno credito alla vita le aiutiamo a credere nel lato promettente della vita, perché c'è questo lato promettente, magari non lo stai vedendo perché sei talmente preso dalle tue fatiche, ma c'è questa cosa, c'è, te lo assicuro, almeno il Cristo questo lo dice. Allora, se la questione non è tanto essere credenti o no, ma essere credenti dell'atto promettente della vita, allora capite che in questa prospettiva superiamo quelle dicotomie fuori e dentro. Chi è dentro e chi è fuori. Chi va tutte le domeniche a messa e chi non ci va. Qui non sto dicendo, siamo tra grandi, non sto dicendo che non si debba andare a messa, non sto dicendo questa cosa qua. È chiaro che se scegli la compagnia di Dio, il posto privilegiato dove li incontri è lì, quindi è ovvio che ti senti veramente attirato dalla messa perché è il luogo massimo dell'incontro, è ovvio. Però la questione, forse oggi nei tempi in cui noi siamo qui, se vogliamo davvero aiutare il regno, non è tanto dividere dentro, fuori, credenti, non credenti, vicini, lontani. Che chi ha qualche anno in più sa che forse sono dicotomie, si dice, no? Alternative che forse abbiamo anche sentito, no? Come fare venire i lontani, come portare i lontani vicino, no? Noi che siamo dentro guardiamo loro che sono fuori, cosa facciamo per quelli che sono fuori? Non so, secondo me, ma più che secondo me, secondo loro questo approccio non serve a nulla, non aiuta il regno, non aiuta il regno, aiuta la contrapposizione, perché poi gli altri sono mica stupidi, ce ne accorgono che insomma evidentemente tu li consideri lontani o comunque non vicini, eccetera, eccetera, eccetera. Allora lui dice proprio questo, no? L'altro che sta davanti a me è prima di tutto un credente. Teobald, nel senso che dà credito alla vita, e se non dà credito alla vita, insomma, ecco, è uno che potrebbe farlo, forse è molto sofferente e non riesce. Un credito che è necessario per vivere, un credere che non è mai espresso una volta per tutte, ma sempre in qualche modo deve essere rivitalizzato. Cioè non è facile, insomma, non è che siamo sempre al top e siamo sempre ottimisti, positivi, carichi, belli e quant'altro. Ci abbiamo anche dei momenti che lo siamo molto di meno. Qui l'altro ci può essere di aiuto. Allora, lui dice, può esistere una relazione tra il regno di Dio, nel linguaggio biblico, e il vivere insieme. Nel linguaggio filosofico, sociale, politico, c'è una possibilità. La possibilità se superiamo le dicotomie. e stiamo su ciò che ci accomuna, la vita. La vita. La vita. Pausa o procedo? Pausa. 7 minuti. Ah, ecco, sì. Grazie.